Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Allora, caro chef, siamo arrivati alla fine del girone d'andata con una regione straordinaria. Oggi faremo un viaggio in mezzo a tonni, porceddi, insomma, Seadas, di tutto di più. Siamo in Sardegna. 349-238-6666 per i vostri SS Oldani. Mangia come parli, @radio24.it. E al telefono c'è già un nostro amico che ormai è romano d'adozione. No, è romano, ma d'origine nuorese. Giovanni Floris. Ciao, Giovanni, buongiorno. Buongiorno, io sono nato a Roma, mio padre era nuorese, io sono orgogliosamente cittadino onorario di Nuoro. Mi sembra giusto. Quindi so mangiare da quelle parti. Sai mangiare, e qui correggimi se sbaglio, poi si dice sempre che magari da fuori si pensa che la cucina sarda sia soprattutto una cucina di mare, in realtà poi la Sardegna ha un legame profondo con la terra, a parte che l'interno della Sardegna è una delle esperienze più mistiche e più belle che un turista possa, credo, fare nella sua vita, soprattutto ovviamente se l'approccia con lo spirito giusto, e anche la cucina riflette tutto questo, no? Le famose case con le finestre verso l'interno, perché il mare è affascinante ma è anche in qualche modo portatore di mistero, pericolo, di pericolo. Arrivavano le invasioni, quindi la comunità sarda, la civiltà sarda cresce all'interno in posti stupendi, ecco, se hai un'occhiata alla Barbagia, all'Ogliastra, al Gennargentu, sono delle montagne splendide. L'Ogliastra è una nulla da invidiare veramente alla Monument Valley, sono dei posti pazzeschi. Assolutamente. E le tue passioni, quindi le tue passioni alimentari, gastronomiche, una ricetta sarde, possiamo quali sono? Chiederla un suggerimento, possiamo chiederla, Giovanni, giusto? Ma lui tutti i martedì, quando torna a casa, a che ora torni a casa? L'una di notte. Devo dire che posso dirti tanti nomi, perché appunto io sono cresciuto con le zie e mia nonna che ci cucinavano cose buonissime e tuttora vado a mangiare molto bene sardo quando sono là. Io mi sposto a giugno in Sardegna, ma non so di che parliamo di zuppa gallurese, di pane frattau, di panadas, di che volete parlare? La tua fregola ideale, così. La fregola che già, quindi, però, diciamo, io sono abituato, siccome io vado a Olbia, ho casa Olbia, la fregola là è con le arzelle, che poi sono le vongole fondamentalmente, esatto, meno certo. Che nel resto d'Italia sono più piccoline, no? In Sardegna sono anche le vongole fondamentalmente, però se devo dare la mia passione sono i malloreddos con la salsiccia, con ragù di salsiccia. È fantastico. Vedi? Fantastico. È uomo di terra, è sardo vero, è il malloreddos. Vi volevo raccontare un episodio sul mirto. Voi lo sapete il mirto, no? In Sardegna. Certo. Sì, l'abbiamo usato nella nostra ricetta anche. Questo è il mirto, quel bel liquore rosso buonissimo che viene dato. Allora io vado con un amico un pochino supponente di questi che stanno, conoscono tutti i vini, che vado a mangiare la pizzeria davanti casa. Fine pizza, viene la cameriera. Questo ad Olbia o a Roma? Olbia, ok. Olbia. Viene la cameriera e dice: dottor Floris, porta il mirto? Io dico: certo, naturalmente. E il mio amico, un po' supponente, dice: ma ce l'avete bianco? E lei: certo. La torna con due bottiglie, a me non chiede nulla, la bottiglia mia già aperta a metà mi versa il mirto rosso, a lui apre una bottiglia e glielo versa bianco. Lui inizia a capire, dice: sono sicuro poi sia buonissimo anche quello rosso, anzi non ho mai capito la differenza. La cameriera poi, sardi con di poche parole, gli fa: guardi, il mirto rosso è fatto con le bacche, il mirto bianco è fatto con le foglie. Allora quello rimane un po' così, dice: allora scusi, più buono quello rosso? E lei: sì. E lei dice: allora perché vendete quello, anche quello bianco? E lei gli fa: perché lo ordinano quelli come lei. È molta Sardegna. Straordinario. Ma è anche una persona che sa fare mestiere, sa fare mestiere. Comunque, ragazzi, credo sia fatta anche con bacche di mirto bianco, però è comunque sì, più leggero. Sì, no, è mirto, è veramente clamoroso. C'è il gallo, il pollo fatto, cucinato col mirto, che ho provato a cucinarlo a vapore con il mirto, con le foglie di mirto, che è molto particolare, nord, anzi sud della Sardegna. Senti, la sardità è un senso di... è una delle regioni italiane, c'è anche una componente strettamente geografica, però insomma è una delle regioni d'Italia nelle quali mi sento di poter dire è più forte il sentimento, anche in certi casi autonomista, indipendentista, senza fare un discorso politico, però insomma l'identità e l'orgoglio di essere un popolo, non soltanto una regione italiana. Si dice un popolo con una lingua, no? Salimba, poi certo. Invece in realtà sono tante lingue chiaro. Parlate all'interno della Sardegna, ma anche differentissime, pensiamo a tutto al ghero ristano, il catalano e alla barbagia del nuorese. E di certo tutte le isole hanno questo sentimento, di certo i sardi hanno mantenuto una cultura che a me piacerebbe in qualche modo aver ereditato, molto, molto, diciamo, molto critica, no? Un pensiero sempre aperto al dubbio e sempre mette in crisi la tesi che viene esposta dagli altri. E ti fa una domanda in più il sardo, magari pure una battutina, ecco, come la signora del Mirto. Come la signora del Mirto, quindi un senso dialettico nei confronti della vita che può essere utile, insomma, per non accettare le verità precostituite e magari porsi qualche interrogativo in più. Detto questo, siamo tornati al porceddu. Che mi pare, cioè, certo, quella base è quello. Quanti chili deve essere un porceddu? Quello che non ho idea. Latte, 5-6 chili, quello così è quello secondo me più pregiato e quello che ha un profumo leggero di latte, per cui è... Ma io l'ho visto cucinare sotterrandolo anche nella cenere, sì, ecco, sì. Come si fa? Quella era una cosa che mi sono sempre domandato. Bisogna munirsi di tanta pazienza, prima cosa, perché il fatto di cucinarlo tutto nello stesso modo, cioè senza disossarlo, comunque trattarlo il meno possibile, bisogna fare una lunga cottura, per cui nella cenere è veramente un'impresa, perché devi mantenere un calore che non sia troppo alto, che altrimenti brucierebbe tutto, ma un calore che con la leggerezza lo porterebbe alla cottura dopo 5-6 ore. Il tempo di cottura del porceddu, a parte il fatto che veramente, dire, è un momento di anche di convivialità, la stessa cottura del porceddu. Assolutamente, no? Cioè, perché poi bisogna fare attenzione al fatto che il porceddu sia un maialino da latte. C'è la cosa importante che la carne dentro debba cuocere e poi la crosticina all'esterno della pelle debba rimanere molto croccante. Non è una cosa semplice se non hai un fuoco regolato, per cui il più delle volte quando fai questo per stare in compagnia lo fai con del fuoco vivo. Allora bilanciare il fuoco vivo non è la cosa più semplice, però quando trovi il giusto calore dato dal carbone, carbonella, dato dal legno che tu hai precotto, quindi si è formata la carbonella e ti tira fuori questo profumo, anche perché poi il cucinare anche con il legno vuol dire profumare anche il prodotto, certo, che cucini. E poi ci sono le spezie, perché poi ci sono mirto, spezie, tino, alloro. Ok, però quando fai una lunga cottura, quello che voglio dire io sconsiglio quando fai una griglia di mettere le spezie sulla carne, quelle tritate, sì, così, perché poi nel frattempo che tu cuoci un pezzo di carne da un chilo, le tue spezie sono già bruciate, per cui non c'è il profumo diretto della spezia. Io la spezia la userei alla fine okay. Utilizzerei buon legno, esatto, un legno dolce, perché il legno già fa una spezia odore. Perché l'importante della griglia è il profumo che ti emana il legno quando cucina. E poi è appunto lì, è proprio una manualità da cuoco che devi mantenere una temperatura costante, per cui tu porti alla fine questo maialino con una cottura perfetta della carne. Due ore e mezza, 3 ore? Secondo me anche di più. Okay. Con una cottura a bassa temperatura, però, okay, però di fuoco secondo me più di 3 ore. È un rito, no? È una rito. Cosa splendida. Beh, se voi immaginate i banchetti sul Supramonte, no? In, sì, questa montagna che è sopra Nuoro, e sono delle tavolate, almeno diciamo io da ragazzino ogni tanto riuscivo ad andare a queste cose, delle tavolate lunghissime in mezzo al bosco, alla roccia, con i maialini che iniziano a cuocere dal mattino. Alle 7 del mattino, però c'è sempre qualcuno, certo, che va a si prepara, comincia a cucinare, poi per l'una c'è il prodotto pronto. Beh, io l'anno scorso nel Campidanese, ecco, scusa, Pier, nel Campidanese li vedevo sotterrare, ecco, ed era una cosa, facevano una buca a terra e appunto con la cenere piano piano, sempre dal mattino fino all'ora di pranzo. Meraviglia. Vero. Va bene, Gio, a presto, grazie. Sempre buon lavoro. Sempre. Lottiamo con entusiasmo. E vabbè, fra poco cominciamo con le ricette, poi abbiamo, adesso voglio fare un po' di focus sul tonno, voglio andare a Carloforte fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Oh, fra poco ci sarà la prima ricetta, tonno crudo, topinambur e bottarga. Topinambur, io ho sempre detto topinambur. Ma però evidentemente sbaglio io. Sbaglio, no, facendo topinambur. Il fratello povero del carciofolo, sì, sai, no? Sì, sì. Quindi, sì, Sardegna ce ne sono, come ci può confermare il nostro ospite, il nostro amico, certo. Luigi Pomata. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Come state? Come va? Aio. Tutto bene. Aio. Benissimo, al caldo si sta bene. Sì, anche perché tu non, diciamo, vuoi dire anche a quelli che non lo sapessero dove ti trovi, dove sei, vuoi farci rosicare di brutto. Vai. Attualmente sono a Cagliari solo, ma mi divido tra Cagliari e Carloforte, quindi non mi manca il mare. Esatto, quindi Castello. Neanche il sole, neanche il bel tempo, no, per cui quello non ci manca. Il Bastione come sta? Ma è sempre lì, l'hanno restaurato, riaperto al pubblico, bellissimo, bianco. Bello, bello. Centro di Cagliari, Cagliari è un posto meraviglioso. Castello, un saluto. Una curiosità, il tonno, così, tu cor. Il tonno, quest'anno. Senti Ondari come dice, il tonno. Quest'anno, la pesca, com'è andata? Cosa hai ricavato quest'anno? La pesca è il frutto. Ho capito. Com'è andata la pesca del tonno? La pesca del tonno, adesso. Apriamo tutto qua. Bellissimi esemplari, ne sono stati liberati circa 3.000, perché hanno raggiunto le quote subito, per gli esemplari che sono rimasti belli, grassi, stomaco vuoto, quello che vogliamo noi. Cosa almeno non puzza di sardine, è una qualità eccellente. Quali sono i momenti dell'anno in cui, proprio legati a questo straordinario pesce, quindi a questo straordinario evento, immagino, per Carloforte sia proprio il cuore, il centro di tutta l'attività produttiva e quindi poi inevitabilmente anche della tradizione, della cultura, del costume di quest'isola. Quali sono i momenti chiave dell'anno? Come pesca, diciamo da maggio a fine giugno. Come evento clou, l'evento che facciamo a fine maggio, giro tonno, dove lì si parla di tonno a 360 gradi a livello mondiale. Esattamente quando? Che me lo segno già sul fine maggio. Fine maggio è il ponte di giugno. Ah, va bene. 1-2 giugno 29. C'è una finale di Champions League, mi sa, in mezzo. Però dici fine maggio, sì. Champions League è stupendo, anche devo dire il giro. Insomma, però, tutto giro, giro, raccontaci un po' del tuo giro tonno. Beh, che un evento parlando. Che è nato 20 anni fa, preso l'idea in Sicilia col Couscous Fest, e da lì ho detto, ma perché non facciamo un evento sul tonno, parliamo a 360 gradi di questa tonnara che è l'unica al mondo, tra l'altro una delle più vecchie, perché pensa che la tonnara ha 350 anni e appartiene sempre alla stessa famiglia, la famiglia Greco. Bene, è una tonnara che fa pesca ecosostenibile, eccellenze italiane. Il tonno sotto i 25 kg fuori esce, quello che finisce nelle varie camere viene pescato. E diciamo che è il miglior tonno che ci può essere nel Mediterraneo, non solo nel Mediterraneo, perché è la prima tonnara che incontra lungo la fase amorosa, quindi essendo in fase amorosa il tonno ha lo stomaco vuoto, perché non pensa a nutrirsi, pensa a accoppiarsi. Pensa all'amore, questa cosa è romantica, è come quando si soffre per amore, perché mi dicono che ci sono delle persone che quando soffrono per amore hanno come effetto collaterale una certa inappetenza. Io quando ho sofferto per amore invece in realtà mangiavo per cercare di... Non sei un buon tonno tu, punto. Esatto, invece quindi, il tonno il tonno soffre. Non fai il tonno, è l'opposto del tonno. Esatto, il tonno invece è digiuno. Beh, questa cosa è favolosa. La cosa più particolare, questa è una cosa che interessa a me e naturalmente a chi ci ascolta, sai, il tonno si utilizza tutto un po' come il maiale, no? Ripiegato nella cucina. La cosa più particolare o l'ultima cosa che tu hai scoperto da poter cucinare o consigliare, la trippetta, la trippetta, la gola, il lattume, qualcuno la io ho visto che ha osato ascoltate bene, gli occhi. Ma è possibile questo? Sì. O fai un passo indietro? No, me li hanno fatti mangiare tanti anni fa, parlo di più di 20 anni fa, i giapponesi. È abbastanza forte il sapore. Io utilizzo il midollo, che è un sapore molto delicato e salino. Il tonno è gelatinoso. Chiaro. Ma cotti questi o...? Me li hanno fatti mangiare crudi. Fantastico. Senti, tu hai una storia di famiglia, perché tuo nonno Luigi, se non sbaglio, faceva la salatura e poi c'era tutto il discorso dell'orto... Sì, mio nonno intonnara, selezionava le parti che andavano bollite, sotto sale, perché il sostentamento di Carloforte è stato il tonno, perché si conservava, ed inverno quando non c'era niente da mangiare si utilizzava il tonno, quindi dalla trippa essiccata, la bottarga, il musciame, il cuore, tutto si usa, anche la testa si utilizzava per fare un olio. Senti, io poi parliamo anche della tua cucina, di Nicolò, ovviamente del centro di Carloforte, tutti i tuoi progetti, però volevo capire la differenza rispetto al taglio giapponese, perché è un po' una, sono due scuole di pensiero diverse, no? Il prodotto è ovviamente lo stesso, l'origine, il punto di partenza è lo stesso, però la maniera italiana, la maniera giapponese di tagliare il tonno e anche insomma la concezione proprio da un punto di vista di gusto penso sia molto diversa. Noi abbiamo un taglio a quarti. Sì. Il tonno viene spaccato all'ombelico e dopo tagliato. Loro invece hanno un taglio classico a filetto. Loro prediligono un pesce molto grasso, che per noi è anche fastidioso quel grasso lì. Noi preferiamo un grasso più delicato, come la nostra cucina. Senti, io al mercato del pesce di Tokyo qualche anno fa avevo visto la selezione dei tonni sul mercato, che è una cosa fantastica, dove tagliano una parte della coda, la parte bassa della coda, alzano la pelle e la carne e da lì capiscono se il tonno è di grande qualità o meno. Come succede lì da voi? Lo facciamo pure noi quello. Ma perché dalla coda e magari non dalla parte alta della schiena dove il filetto perché è più robusto? Perché dalla coda tu vedi le alveolature del grasso che è al tonno. Ecco. In base alla quantità di grasso tu lo vedi dalla coda, lo vedi. Senti Luigi, io ti vengo a trovare, non so se a Carloforte, a Cagliari, hai mille progetti, sei stato insomma lei, ti consiglio, hai rappresentato l'Italia al Bocuse d'Or, insomma sei una leggenda della nostra cucina. Mi dici una cosa legata al tonno o anche non legata al tonno che stai provando, che ti sta dando soddisfazione, insomma una novità che ci vuoi segnalare, una scoperta fatta recentemente? Da scoprire, noi abbiamo solo da rispettare la materia prima che ci offre il nostro territorio, quindi è quello che noi facciamo collaborando con gli artigiani, gli ortolani, i pescatori, molta più attenzione a quel pesce che viene buttato via, quel pesciolino che tutti scartano, che fa parte di quel numero di materia prima che fa la differenza nella cucina, come può essere lo scorfanetto, come può essere il pagello piccolino. Molta più attenzione all'ecosostenibilità, quello stiamo facendo noi. Assolutamente, che è molto importante. Grazie chef, grazie, è stato bellissimo. Grazie del tuo tempo, andremo a trovarlo a Girotonno. Andiamo, ci organizziamo. Limite, chiediamo di spostare la finale di Champions, se contemporanea, la vediamo da Cagliari, da Carloforte. La finale di Champions è sacra, con tutto l'affetto per il tonno, però la Champions, il tonno. Allora, tonno crudo, topinambur e bottarga, vai, facci sognare. Tonno subito, iniziamo subito. Che molto semplice. Però ridi, però la ridi. Sì, la schiattone, perché mi fa ridere la schiattone e mi guarda da fuori. Prego, prego. Molto prego, semplice, chef. Topinambur o topinambur, come dici tu, è il fratello non minore, ma è quello che si avvicina molto al carciofo, per cui siamo anche nella stagione giusta. Abbinato a un tonno semicrudo, direi, sono dei cubi di tonno che tagliamo in maniera regolare, li facciamo marinare con un po' di vino rosso, se vogliamo, un po' di olio e un po' di succo di limone. A parte, sbucciamo leggermente i topinambur, prima li laviamo, li sbucciamo, li tagliamo a fette irregolari, arrostiti in padella per dare un po' di anche un po' di corpo e un po' di profumo più intenso a questo vegetale. Cosa facciamo? Disponiamo in una fondina questa base di topinambur. Sopra aggiungiamo questi cubi che abbiamo fatto marinare, però anche allo stesso tempo fatti arrostire solo da un lato, giusto per dare quella semicottura, mantenendo pura la materia prima, quindi semicruda, però questa arrostitura che diamo all'inizio serve per dare ancora più incisività al piatto. E poi alla fine, come diceva poco fa anche Luigi Pomata, il mio amico, una grattugiata di bottarga di tonno, magari quella piatta che loro, appunto lui prima ha accennato, che dà un tocco di sapidità e un tocco di quel mare un po' più forte, visto che anche la carne del tonno cucinata solo in questa, sulla parte di un lato, è molto, risulta molto delicata e molto leggera. Per cui è una marinatura, un semicrudo di tonno con topinambur e appunto la bottarga grattugiata. Beh, mi sembra molto interessante, molto interessante. Fra poco continuiamo. Spazio News, altre ricette, altri momenti di grande sardità. Fra poco. Aiuto, ho colpito il microfono. Sardità. Fra poco. Sardità. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. In un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci. Ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, io proprio sento il tonno, la bottarga, li sento nell'aria. Che scherza, dico la prima stavo ho pensato posso aggiungere una cosa sulla ricetta di prima? Un'insalata di pera cruda molto sottile, secondo me la finisce, la bella, chiude bene. Bello, poi ci può stare, un po' di dolce, mancava un po' di dolce, non me l'hai detto. Mancava un po' di dolce, sì, ma perché dovevamo andare in fascia, dovevamo bloccarci un attimo, te l'avrei detto. Anzi, in realtà te l'ho detto fuori onda, ho detto, caro chef, ma non manca un po' di dolce. Dolce. Allora, abbiamo Edoardo Toia, autore del libro Qui starete benissimo, ricette e storie delle confraternite enogastronomiche italiane. Già, guarda, a me già confraternita è una parola che mi piace, enogastronomica mi piace forse ancora di più, italiana, ça va sans dire, per dirla alla francese. Allora, come... ciao Edoardo, innanzitutto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ciao Edoardo, buongiorno. Che buongiorno. Cosa sono queste confraternite? Mi piace il concetto, che cos'è esattamente? Le confraternite enogastronomiche italiane derivano da una concezione medievale delle confraternite, ma hanno perso quel significato di pio e religioso, e oggi si occupano di mantenere e tramandare, se possibile, la tradizione enogastronomica italiana attraverso il racconto di prodotti tipici, piatti, ricette particolari di grandi cene, di grandi cene, di come stare a tavola anche, no? Come stare a tavola, grandi cene, valori di amicizia, di convivialità, di rispetto, che poi si fondono tutti con le gambe sotto il tavolo. È chiaro. E lì si sta meglio tutti. Ecco. E quindi ci sono tutte queste confraternite che sono raggruppate in una federazione che si chiama FICE, Federazione Italiana Enogastronomiche, e che hanno questo tipo di obiettivo. Si incontrano, condividono tra di loro le loro esperienze, le varie ricette, ed è un mondo veramente gustoso, oltre che bello. Ricette o solo prodotti? Prodotti e ricette, ci sono due tipi di confraternite. E quante sono? Quante sono? E magari quelle iscritte alla federazione sono 120-125, è nel libro, per motivi di spazio ne ho raggruppato una cinquantina, anche per dare una territorialità più profonda, se no diventava molto presenti Piemonte, Veneto e Lombardia, che la fanno da padrone. Certo. Ecco, una che salta all'occhio, sarda, una confraternita sarda che al momento è quella che sta valutando meglio la storia, la cultura. Il priorato delle antiche contrade di Torres, per esempio, ci sia, anche, no? Sì, poi c'è l'Accademia Enogastronomica Sassarese, la confraternita del Nebbiolo di Luras, che è un vitigno autoctono sardo vicino ad Olbia, e poi c'è quella che abbiamo analizzato, che è la confraternita enogastronomica del nord-ovest della Sardegna, che si propone di mantenere vive tutte le tradizioni enogastronomiche di quella parte della Sardegna, in particolare la aragosta all'algherese. Che non mi sembra male. Ma se non sbaglio c'era pure la confraternita, non era in Benvenuti al Sud? Vedo la schiattore che mi fa... Sì, in Benvenuti al Sud c'è la confraternita del Gorgonzola, sai che lui emigra verso il sud impaurito di non trovare più l'aria di casa, e si porta il Gorgonzola da casa. Ma è straordinario, devo dire. Esiste, ed è anche una delle più importanti. Senti, la confraternita della cacio e pepe non c'è ancora, no? La posso fare? La possiamo... Non c'è ancora. La potremmo fare? Possiamo fondare. Come si può fondare? Ecco, adesso facciamo un progetto concreto. Ecco, un progetto. Deve essere un gruppo di amici. Beh, quelli non mancano, sì. Che hanno gli stessi obiettivi, una decina di persone. E che hanno... L'obiettivo è uno, mangiare la cacio e pepe. Mangiare la cacio e pepe. Ma soprattutto la provenienza del cacio, del pepe, della pasta, esatto, insomma, un po' quello. Non aggiungere prodotti strani nelle preparazioni, come la panna o altre cose. Ecco, ma quanto siete aperti a ricevere le nuove idee che arrivano un po' dal mio mondo, che è quello della ristorazione, magari del fine dining, della ristorazione di qualità o fatta da giovani cuochi? Quanto siete pronti a ricevere questi consigli per poter migliorare ancora di più queste confraternite? Ma io penso che siamo abbastanza pronti, è un processo culturale in fase di evoluzione, no? E infatti io spero che tanti giovani come me possano entrare a far parte di queste confraternite per portare un po' avanti l'innovazione, perché io penso che la tradizione possa essere mantenuta e tramandata solo con con l'innovazione. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Mi sembra bellissimo. Va bene, quindi operativamente adesso una trentina di amici, una decina di amici, facciamo la confraternita, poi chiamiamo della cacio e pepe senza soffritto. Chi soffrigge soffrigge, chi non soffrigge non soffrigge. Andiamo alla la fregola mantecata, salsa di cardi e aragosta sarda. Vedi poi perché io ti voglio bene. Vedi, questa ricetta la potresti fare anche subito, tu. Vedi, questo è un po' mood Pierre, perché oramai ti penso quando scrivo le ricette, quando mi preparo, penso a te. Per cui questa fregola, che inizialmente doveva essere fatta senza soffritto, a questo punto aggiungo soffritto. Hai visto? Hai visto? Mi pensi quando soffriggi? Facciamo, ti quando penso, ti quando soffriggo penso, pensa Pier. No, io direi magari facciamo senza tostarla, secco, come faccio di solito, la dedico a te, quindi devio la ricetta. Facciamo un soffritto leggero con scalogno. Non quello sfortunato, ma quello buono. Quello buono, quello tagliato buono. Fine, non tritato, questa cosa molto importante. Facciamo soffriggere appena appena con un goccio di olio, aggiungiamo un po' di vermentino, un po' di vino bianco sardo, facciamo ridurre, aggiungiamo la nostra fregola e bagniamo con un po' di acqua. Così. Perfetto. Teniamo a parte. In un'altra pentola avremo preparato dei cardi che abbiamo sbucciato, abbiamo tagliato a piccoli pezzi, abbiamo cotto con un pochettino di pochissima farina e del succo di limone e un pizzico di sale. Scolliamo questi cardi dopo circa 40-45 minuti, facciamo una salsa, quindi frulliamo gli stessi con l'aiuto di un frullino ben affilato, naturalmente le lame, con l'aggiunta di un po' di acqua di cottura appena appena sapida, un goccio di olio d'oliva ancora crudo, quindi otterremo una salsa di cardo. E poi cosa faremo? Aggiungeremo questa nostra salsa alla mantecatura finale della fregola, per cui vedi ti ho dato l'opportunità del soffritto proprio perché alla fine vado a mantecare senza burro o anche senza formaggio, questa, per renderla più naturale, un po' più leggera. Per cui avremo preparato questa nostra fregola mantecata e a parte avremo cotto due aragoste assemblate dalla parte. Tempo di cottura della fregola dipende. No, dell'aragosta. Dell'aragosta, allora io prevedo che un'aragosta da 800 grammi per mantenerla corretta, quindi una carne che sia non ben cotta ma neanche cruda, 8 minuti, 7 minuti e mezzo, 8 massimo, con una stella d'anice nel courbouillon, cioè nell'acqua che bolle, con un po' di aceto, una stella d'anice, una foglia di alloro, poco sale, pochissimo. Facciamo bollire, da quando l'acqua bolle mettiamo le nostre due aragoste, ne facciamo cuocere 8 minuti, le scoliamo. Io suggerisco sempre di dargli uno shock termico con un po' di acqua e ghiaccio fuori dalla pentola. Dopodiché le togliamo il carapace, le tagliamo, facciamo circa 8 fette da aragosta, da 8 medaglioni per ogni coda di aragosta, e le adagiamo su questa nostra fregola mantecata. Fantastico. Che nel frattempo si sarà intiepidita. Poi, se volessimo dare il tocco un po' più fresco, visto che insomma stagione, queste giornate così anche belle ci portano ad avere un gusto un po' più fresco, una grattugiata di buccia di bergamotto o di limone. Benissimo, passiamo allo spazio news. Prego, prego. Allora, la colazione piace social, almeno a quanto pare. Breakfast con l'hashtag, quindi col cancelletto davanti, registra 89 milioni di post. Sapete che insomma su Instagram soprattutto il cibo viene fotografato continuamente, e quindi breakfast insomma va forte. Anche l'hashtag colazione italiana registra circa 1 milione di interazioni. Da questa analisi, che è stata effettuata dall'osservatorio Doxa Union Food, emerge anche la forte propensione all'estetica della tavola delle nuove generazioni. Ecco, tu credi che quelle foto fatte sempre così belle, patinate, siano sempre veritiere riguardo al cibo? No, oppure no? Una domanda. Io su Instagram faccio, sono abbastanza dialettico, perché insomma vedi un sacco di cose in mezzo, tutti un po' in posa, posso dirlo. Dici che è no, poco dico naturale. Che è bello, che è quasi un genere quasi artistico, estetico, insomma. Va bene, ma voglio dire, benissimo. Però è chiaro poi che la realtà spesso è diversa dalla fantasia. Ecco. Poi Zafferano, l'Enea riproduce una parte dell'essenza dei laboratori. Questo è davvero molto molto interessante. La ricerca che gli studiosi dell'Enea hanno portato avanti in collaborazione con l'Università Spagnola di Castiglia-La Mancia ha permesso di sviluppare un metodo biotecnologico per produrre pirocrocina. che è la molecola responsabile del gusto dello zafferano, che è il safranale, che è il composto che contribuisce al suo aroma. Insomma, si lavora anche in laboratorio per riprodurre l'essenza dei sapori. Speriamo non troppo, speriamo non troppo. Tu sai che il zafferano sardo fu il primo circa 35 anni fa che iniziai a utilizzare nella cucina di Gualtiero Marchesi, per cui mi ricordo perfettamente questi pistilli di 2 centimetri o più, che molto profumati, per cui bene. Benissimo, e poi Stefano Citterio, che è già con noi per parlarci di una bellissima iniziativa, l'associazione Panettone Sospeso. Ciao Stefano. Ciao Pierluigi, ciao Davide. Ciao Stefano, benvenuto, ciao. Che allora, sorpresa. Grazie. Questa è una bellissima storia milanese, fra l'altro Citterio, insomma, un cognome abbastanza autoctono, direi, ma è anche un ponte, se non sbaglio, bellissimo, perché la tradizione del caffè sospeso nasce a Napoli, e Milano che cosa fa? Ma noi ci siamo proprio ispirati a questa bellissima, geniale idea napoletana del caffè sospeso, e l'abbiamo, virgolette, milanesizzata, cambiandola un pochettino. A Napoli il caffè si lascia in sospeso, chiunque ne può beneficiare chiedendolo. Invece noi abbiamo creato questa idea del panettone sospeso in realtà già nel 2018. Ha avuto un grosso successo nei due negozi di Milano, e quindi Gloria Ceresa, che è la mia socia e cofondatrice anche dell'associazione Panettone Sospeso, abbiamo pensato al Natale scorso di mettere in rete un po' di pasticcerie milanesi, quindi gli artigiani milanesi, i produttori di panettoni milanesi, per creare questa idea di solidarietà. In realtà funzionava in maniera molto semplice: una persona poteva andare nelle pasticcerie, lasciare in sospeso un panettone e il pasticcere raddoppiava la donazione. Esatto. Questa cosa ci ha permesso di raccogliere oltre 1600 panettoni. Esatto, 1644 panettoni, anche grazie a una donazione spontanea di un'azienda dolciaria che ne ha dati 300, una catena milanese di palestra che ne ha dati 70, ma 1274 invece sono panettoni sospesi offerti dalle persone. Ovviamente il patrocinio del Comune di Milano, anche il sindaco Sala si è speso molto, ha invitato tutti a partecipare. Insomma, un grande successo. Sì, è stato un grande successo, ci ha dato un grande entusiasmo, quindi lo ripeteremo anche il prossimo Natale. Abbiamo anche delle idee per, come dire, far crescere questa iniziativa. Ci ha fatto piacere l'anno scorso donare questi panettoni a Casa Iannacci, che tra l'altro certo. È una casa di accoglienza del comune di Milano. E addirittura la raccolta è stata superiore alle reali esigenze di Casa Iannacci, per cui il direttore di Casa Iannacci ha poi pensato di distribuire ad altre associazioni milanesi con le quali loro collaborano. E quindi abbiamo raggiunto veramente un numero importante di persone. Grazie Stefano. Grazie, complimenti, Stefano. Bella questa idea da Buona Napoli giornata. A Milano, una filosofia che viene accolta, rideclinata in salsa ambrosiana. Quindi sarà possibile avere anche un pezzettino di panettone quando andrai al bar a prendere il caffè sospeso, praticamente fai colazione gratis. Può essere una buona idea. L'aggiungiamo, no? Possiamo lanciarla questa cosa. Ma la cosa bella del caffè sospeso è proprio che nasce, i napoletani me lo confermeranno, ne parlavamo con Ruotolo qualche settimana fa, nasce proprio come una cosa spontanea che poi insomma si è diffusa. Di volersi bene a degli sconosciuti, essenzialmente. Il senso profondo è questo qui, che tu stai offrendo un caffè non a un tuo amico, non a uno al quale poi magari gli devi chiedere un favore, stai semplicemente facendo un piccolo gesto a favore di qualcuno che neanche conoscerai, ma concorri, diciamo, alla solidarietà e al senso di amicizia. Ho provato a lanciarlo nel circolino che c'è proprio nella piazza del Don, nella piazza antica dove ho il ristorante, c'è un circolino, ho lanciato tra le persone. No, devo dire bene, qualcuno ho sentito che si sta passando un po' il caffè. Buono, quindi, ottimo. Bene. Fra poco ripartiamo con S. Soldani, tutto, fra poco. Mangia come parli. Allora, ultimo blocco, ma pieno di cose interessanti. Partendo da questo uovo affogato, Mirto e Ricci di Ambre. Di mare. Ah, è vero, come l'ho scritto Ambre. Questo fa veramente ridere. No, i ricci di Ambre. Ma io pensavo ci fossero i ricci di Ambre. E che ne so, un paesino vicino a Cagliari. Tante volte. Vicino a Selargius. No, vicino a Selargius ci può stare pure Ambre. Va bene, no, ricci molto di mare. Vabbè, questa è epica. Vai, allora. Molto semplice. Qui la differenza tra un uovo affogato normale e questo è che nell'acqua di cottura, oltre all'aceto e un pizzico di sale, aggiungo un po' di mirto. Ok? Ritmo. Ah, no, tu sai che queste ricette le ho scritte tra la notte e la mattina, sai, no, per essere pronto. Per cui qualche errore c'è, Pier, scusami. Ma figurati. Quindi c'è la particolarità nella cottura dell'uovo. Basta, mi fermo. Basta. Dai, andiamo avanti. Okay, Claudia, allora, take a break, Claudia. Allora, dai. Quindi questo mirto darà un profumo particolare e un colore leggermente più intenso. No? Per cui cuociamo l'uovo, per me l'uovo affogato corretto, o come piace a me la cottura massima è di 3 minuti e mezzo, 4 al massimo, da quando l'acqua bolle. Si mette l'uovo uno per volta in questo vortice che creiamo con una forchetta, per cui l'albume gira intorno al tuorlo, diventa una palla, e questa palla sarà leggermente più scura proprio per il mirto. Poi cos'altro? Riccio di mare è semplice, ho un po' gli incubi dei ricci di mare, tu devi sapere, perché il mio primo impiego da Gualtiero Marchesi era fuori dalla cucina ad aprire 3 casse per volta di ricci di mare. Ah. Appena iniziato a lavorare, per cui la prima cosa conosco molto bene il riccio. Io iniziavo a fare le macchie invece. La cosa, l'attenzione che bisogna fare quando tu apri i ricci di mare è immergerli in un'acqua, in una ciotolina di acqua, giusto per far cadere nel caso ci fossero dei pungiglioni che rimangono attaccati, per cui una volta che sono scolati, ben puliti, li aggiungiamo, li condiamo con un filo di olio extravergine di oliva, una buccia di limone grattugiata che a me piace molto, e dei capperi dissalati, piccoli, quei capperi nani, per cui una volta che avremo creato la nostra salsa un po' slegata, la adageremo sopra questo uovo affogato che avrà un profumo leggero di mirto. E poi adesso ti interrogo, un po' di pepe mignonette, mi spieghi tu cos'è? È il pepe schiacciato. È fantastico, quindi? No, perché sennò... Adesso non so se saprei farlo, però lo so, il mignonette. Perfetto. È quando tu schiacci il pepe, non so, forse per togliere un po' di piccante? Esatto, perché si forma della polverina che c'è all'interno, esatto. Fuori esce, per cui tu lo scuoti e avrai il profumo di pepe senza la parte piccante, e darà il croccante all'uovo, che è molto morbido. Più croccante, meno piccante. C'è qualcosa in questo procedimento mignonette da No, è solo l'unica cosa, bene. Magari in un mortaio si pesta non molto, perché altrimenti si riduce tutto in polvere, e poi prima di servirlo... Cioè senza violenza, insomma, solo per schiacciarlo. Esatto. E poi prima di servirlo metterlo in un colino dove spolveriamo, e perché ti ascoltano ancora per Ambre ridono. va bene ridono e ancora per Ambre. Togli questa parte piccante e il croccante rimane. Carlo Pische è già con noi, fondatore titolare di Distillerie Lussurgesi a Santo Lussurgio. Come va? Buonasera Davide, buonasera. Per l'invito da parte vostra, grazie mille. Voi che cosa fate? Fate un sacco di cose belle, state lì, distillate. Noi produciamo felicità. Ecco, diamo felicità ai nostri clienti. Devo dire, il concetto filosofico della distilleria mi piace tantissimo, perché si lega, correggimi se sbaglio Carlo, al concetto del tempo, no? Tempo ovviamente che serve per produrre questi prodotti meravigliosi, e anche il famoso vino da meditazione, quindi tempo che serve per ovviamente senza abusarne, ma insomma per, no, il classico dopo pasto, a prolungare uno stato di benessere e magari anche di meditazione piacevole, no? Beh sì, assolutamente, il distillato, il liquore in se stesso è comunque un, se no, appunto come diceva lei prima, non abusato, è un prodotto che comunque dà piacere al corpo e all'anima e alla mente, perché comunque ci permette di rilassarci pensando alle nostre cose, alle cose più belle. Questo è il vero scopo di un prodotto. Ecco, nel mio caso io penso spesso già al pranzo del giorno dopo, mentre sto, capito, nel dopo pasto prendo il distillato e già sto pensando alle cose che mi danno piacere il giorno dopo. Che mi dici qualche cosa particolare da segnalare, qualche prodotto tipico vostro del quale siete particolarmente fieri? Beh, c'è il filoferro, immagino che sia, no? Di casa. Sì. La nostra realtà, in particolare questa di Santo Lussurgio, si distingue in Sardegna per la produzione di acquavite, cioè proprio un distillato di vino. Noi siamo l'unica distilleria in Sardegna che racconta una tradizione secolare in questo senso, e quindi questa è proprio una cosa. La particolarità proprio di questo tipo è che chi distillava in Sardegna da noi sono le donne, cioè mentre l'uomo era affaccendato nei lavori di campagna, nel cuore del bestiame, la donna, proprio perché ci vuole tempo per fare questo tipo di prodotto, a cui si impegnava nella distillazione e nonostante lei non bevesse si produceva un ottimo distillato. Quindi questa è la particolarità proprio che distingue Santo Lussurgio sia nella produzione del prodotto che nella tradizione. Hanno una marcia in più. Un abbinamento? Noi dobbiamo fare i lavori quelli basici. Un abbinamento di questo distillato con un piatto sardo, una preparazione sarda, cosa possiamo dire? Come noi ci stiamo cimentando, perché l'azienda a fine se stessa ormai non c'è più tempo, non ha più spazi, quindi ci stiamo cimentando nel far mangiare l'alcol a chi non lo beve, e spaziamo sia dal dolciario, perché abbiamo una linea di cioccolatini, di panettoni con la crema alcolica, ma stiamo sperimentando insieme a una carissima amica che si occupa di cibo, perché ormai il cibo è anche cultura, non più sopravvivenza. Certo. Stiamo sperimentando i prodotti tipici, dei piatti tipo con il maloreddos, con salsiccia e formaggio, che si chiama casezzolo, che è un formaggio tipico nostro, con grana di mandorle sfumate alla coavite di Santo Sudio, quella in particolare, quella al finocchietto, che le lascia un retrogusto delicatissimo, veramente fa la differenza. Mamma mia, fantastico. Ma il mirto, quanto, perché sai, uno pensa alla Sardegna, pensa al mirto, ma nella quotidianità com'è il consumo in Sardegna di mirto? Cioè veramente un rito di fine pasto per tutti? Assolutamente, oltre dopo la birra è la seconda bevanda più bevuta, perché in Sardegna pro capite è la maggior regione d'Italia che beve più birra, però dopo la birra il mirto è quello che ci rappresenta, perché comunque è una bevanda che bevono più o meno tutti, dalla donna all'uomo, ed è quel prodotto che comunque in qualche modo ci riconduce, ci riconosce nell'essere d'Italia. Assolutamente, grazie di cuore. Devo dire che la birra sarda, senza fare pubblicità, anche se il marchio è famosissimo, però piccoli, un esempio, birrifici nascono, crescono, no, crescono assolutamente, e devo dire che hanno fatto un marketing, lo dico da vecchio uomo di marketing, lo facevo 20 anni fa, ma ancora un po' di amici, veramente molto bello, nel senso molto legato al territorio, esaltando una caratteristica tipica, per cui concordo. Veramente sono stati secondo me bravissimi. SOS Oldani, vai. SOS Oldani. Gabriele, vai da Busca. No, da Ambre. Secondo me Busca non è, sarà da Baschi, non lo so. Gabriele, vai. Ciao chef, un grande dubbio. Io uso sempre le cotture lente per non correre il rischio di bruciare nulla, però ogni tanto qualcosa andrà cotto a fiamma alta. Così sono i piatti e le cose che non si può prescindere dalla fiamma alta. Anche parla in maniera molto lenta come cucina. Comunque lo sappiamo, è un paese del 10.133 abitanti della provincia di Cuneo, la provincia grande in Piemonte. Ovviamente non sto leggendo Wikipedia, no assolutamente, già parte della comunità montana Valligrana e Maira. Mi fai rispondere a questa bella domanda? Prego. No, io direi che sicuramente nella nuova cucina una cottura a fuoco lento, una cottura a bassa temperatura è più indicata, anche per maltrattare meno alcuni prodotti. Però io oggi ho un esempio, che è il pezzo di tonno che abbiamo fatto con topinambur a bottarga all'inizio, dove ho detto che veniva scottato da una sola parte, per cui l'abbinamento di un fuoco di una fiamma alta o di un forte calore è proprio per cambiare leggermente il gusto. Io non abuserei sicuramente della fiamma alta. Dario da Napoli. Ciao chef, senti, ma io avevo un dubbio, ma perché tutti dicono che sul pesce non ci si può mettere il formaggio? Ma sai, qui andiamo un po' sulla parte scientifica, io concordo, perché due proteine così importanti secondo me stridono un po', poi anche in alcune religioni non sono accettate per ovvi motivi anche di salute oltre che di religione, per cui molte volte se si dovesse utilizzare il bucatino pecorino e cozze, fa eccezione. Però anche lì con un giusto equilibrio, io non abuserei di un formaggio magari molto invecchiato, perché poi andrebbe a coprire la delicatezza, certo, di un pesce. Quindi è una questione di equilibri, e se si volesse usare, io lo uso praticamente mai, però mi è capitato di mettere una spolverata di formaggio su alcune preparazioni, ma è veramente 2 grammi per dare quel tocco, ma poi che deve svanire in bocca. Giorgia da Roma. Ciao chef, ma se voglio fare una frittata con le cipolle vanno tagliate a strisce oppure a tocchetti? Io inizierei con la prima lezione invece di andare a questa domanda della cucina. No, anzitutto utilizziamo una cipolla buona. Okay. E poi le farei tagliate a fette sottili e sbianchite prima in acqua acidulata per un paio di minuti, scolate, poi rosolate in padella e a questo punto aggiunte le uova che avevamo sbattuto con qualsiasi altra cosa. E poi insomma squali di pensiero, hai sentito prima sul tonno, no? Come ce ne parlava Luigi Pomata, la differenza di taglio che c'è fra gli italiani e i giapponesi. Chiudiamo in bellezza, in dolcezza, con Seadas, miele e semi tostati. Siamo un po' a corto, mi dice Claudia. Vai, vero, col tempo, secondi. Quindi sarò velocissimo. Ho tolto la frittura della Seadas, non volermi male, ti prego, non friggiamo più. No, ma io facciamo un impasto di 250 grammi di farina di grano duro, 125 millilitri di acqua, 30 grammi di albume d'uovo, 10 grammi di tuorlo d'uovo, 3 centilitri di olio di semi di girasole, facciamo riposare, poi su una spianatoia tiriamo questa nostra pasta con un mattarello, possibilmente con le forze delle braccia. Tagliamo, coppiamo con un coppapasta di 15 centimetri più o meno. Adagiamo queste, anzi le foriamo leggermente, adagiamo queste cialde su una placca da forno, inforniamo a 180 gradi, anche 190 gradi per 7-8 minuti. Queste si gonfieranno leggermente, una volta che sono cotte le leviamo, le facciamo intiepidire. Poi a parte avremo preparato naturalmente un po' di ricotta, in questo caso io ho messo della ricotta di pecora diluita con un po' di panna liquida, 20 grammi di zucchero moscovado, che è quello che sa leggermente di liquirizia, una macinata di, anche qui ci può stare una macinata di pepe nero giusto per dare un po' il piccante. Poi adageremo questa ricotta lavorata sul nostro disco di pasta e poi un po' di miele andremo sopra. Con questo nostro miele, un miele di licriso secondo me può andare molto bene. E poi la particolarità ancora sono dei semi di sesamo, semi di lino, semi di girasole tostati come se fosse un curry, a questo punto con una fiamma, direi con un calore forte sotto per dare una doratura e un profumo più intenso che metteremo sulla nostra Seadas. Perfetto, dobbiamo correre. Ciao, ciao, ciao chef. Ciao.